Il punto di Stefano Folli. Il viaggio in America del premier Renzi è un'ottima cosa se serve a far conoscere al di là dell'Atlantico la serietà di una nuova classe dirigente italiana. Un po' meno se diventa un'altra occasione declamatoria per promettere rivoluzioni e cambiamenti, persino violenti nel senso di radicali, sempre restando nel generico. In tal caso vorrebbe dire che il nostro Presidente del Consiglio continua dagli Stati Uniti a rivolgersi all'opinione pubblica interna, quando invece dovrebbe parlare solo ai suoi ospiti americani. Che il cammino sia difficile, come dimostrano le polemiche sulla riforma del lavoro, non c'è dubbio, ma adesso è utile che Renzi sia meno ossessionato dal risvolto mediatico delle sue iniziative, cioè dai sondaggi, e si preoccupi invece di mandare in porto almeno alcune delle riforme individuate. Sul lavoro, ad esempio, un accordo nel PD è possibile una volta garantita la volontà di raggiungere l'obiettivo, e Napolitano sta aiutando non poco il governo. Ma i conflitti a uso dei giornali e dei talk show televisivi, agitati come bandiere ideologiche, non aiutano né da una parte né dall'altra.